Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. State Plan 1425 è il nome in codice di una delle armi più letali usate dalla Germania orientale durante la Guerra Fredda. E l'arma è il doping di Stato. Nel confronto, nella guerra senza guerra, che per più di 40 anni ha messo di fronte il blocco occidentale con quello orientale, uno dei conflitti più agguerriti è stato quello che ha contrapposto gli atleti occidentali, soprattutto statunitensi, con quelli del patto di Varsavia e soprattutto con quelli della Repubblica Democratica Tedesca, la DDR. Nel periodo che va dal 1973 all'89, un paese di 18 milioni di abitanti ha sfornato tra i maggiori campioni del mondo, atleti che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, soprattutto nell'atletica e nel nuoto, ed hanno minacciato la supremazia americana fino a umiliarla in più di un'occasione. Lo sport era l'unica area nella quale questo piccolo stato, la Repubblica Democratica Tedesca, poteva offuscare il resto del mondo. La voce che avete appena sentito è quella dell'attuale capo dei ricercatori della Jena Pharm, è un'azienda che in questi anni, in quegli anni, ha fornito la maggior parte dei medicinali usati dalla DDR, farmaci che sono stati somministrati agli atleti tedesco-orientali a loro insaputa, e in questa faccenda quegli atleti sono le vittime, non i colpevoli. E nella puntata di oggi parliamo soprattutto di una di questi atleti, una delle più grandi nuotatrici degli anni 70, parliamo di Cornelia Ender. È facile per loro affermare queste cose ora. Il dito è puntato solo contro di noi, non verso di loro. E noi non sapevamo niente di quello che facevano a quei tempi, mentre loro lo sapevano benissimo. Quando ci davano cose per rigenerarci, non ce lo chiedevano mai. Ci venivano semplicemente date. Fra il 72 e il 76 Cornelia Ender ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel nuoto. È stata la protagonista assoluta di due Olimpiadi. In realtà lei è stata una delle vittime di un regime che ha usato lo sport come strumento di propaganda politica. Una vittima perché, oltre al terribile effetto delle droghe utilizzate sui loro corpi, che peraltro negli anni hanno avuto effetti devastanti, la beffa del doping di Stato è che tutti quegli atleti hanno dovuto convivere e convivono ancora oggi con la sgradevole sensazione che, nonostante gli anni di allenamenti durissimi, i loro risultati non fossero e non siano oggi considerati veramente meritati. Forse neanche loro sanno se avrebbero vinto o meno senza usare il doping. E sì, perché Cornelia, brava, lo era veramente. A 13 anni alle Olimpiadi di Monaco del 72 conquista 3 medaglie d'argento, e lì ancora non si può parlare di doping. E lei ha iniziato a nuotare da poco, a 10 anni, perché ha dei problemi alla schiena. Il pediatra consiglia ai genitori di farle fare dello sport per migliorare la sua struttura fisica. Cornelia nasce nella Sassonia il 25 ottobre del 1958, è figlia di un colonnello e di un'infermiera, trascorre un'infanzia tranquilla e dimostra fin da piccola di avere un bel carattere. Da bambina ero robusta, tenace. Se non riuscivo a ottenere quello che volevo, piangevo e scalpitavo. Coriacea, e in poco tempo raggiunge livelli eccellenti nel nuoto. A 12 anni partecipa alle Spartachiadi, è una manifestazione sportiva che si svolgeva nei paesi del blocco dell'est, una manifestazione per ragazzini, insomma un modo per gli osservatori sportivi di individuare i nuovi talenti da crescere. Cornelia è uno di questi e il nuoto le piace. Tutta la sua vita, come spesso succede a quell'età, soprattutto in posti come la Germania Est, tutta la sua vita si concentra sullo sport. E c'è un'altra nuotatrice in quel periodo, si chiama Ute Kraus, e ci descrive la vita tipica di queste ragazze. Mi ricordo che avevo questa idea di fare sport tutto il tempo. Invece di leggere o scrivere o di ballare tutto il giorno, io pattinavo, facevo ginnastica, nuotavo. Il mio sogno era fare quello e pensavo che sarebbe stato tutto meraviglioso. e lei nel 70 alle Spartachiadi vince 6 medaglie d'oro. Ricordiamo che ha solo 12 anni, è una performance che non passa inosservata ai tecnici, che la prendono subito sotto le loro ali, che non sono propriamente delle ali protettrici. La trasferiscono ad Halle, inizia un intenso allenamento che la porta l'anno dopo a partecipare alle Olimpiadi di Monaco 72. È la più giovane atleta tedesca a salire sul podio, arriva seconda anche nei 200 metri misti dietro alla fortissima Shane Gould australiana, e arriva a mezzo secondo di distacco, ma dopo un anno il record della Gould lei saprà già superarlo. Il falco e il gabbiano. Alla Repubblica Democratica Tedesca non basta avere a che fare con una promessa, le promesse devono diventare certezze. Così il regime sta maturando in quegli anni decisioni senza precedenti, perché nel piccolo paese del blocco comunista si fa strada l'idea di creare una supremazia sportiva che possa dichiarare al mondo la superiorità del comunismo. E gli ambasciatori di questa politica che si rivelerà scellerata sono atleti che indossano tute da ginnastica invece del gessato, che per più di 2 decenni si impegnano e vincono centinaia di medaglie in tutte le maggiori competizioni sportive internazionali. Una di questi atleti, una medaglia da appuntarsi al petto, è proprio lei, Cornelia Ender. Ci era stato detto che avremmo dovuto battere il nemico, indipendentemente dal fatto che fossimo in America o in Germania occidentale. E per ottenere questa supremazia si gioca molto sporco. Si ricorre alla medicina, all'Oral Turinabol, che è uno steroide anabolizzante prodotto dalla Jena Pharm e composto sostanzialmente di testosterone, l'ormone maschile. L'Oral Turinabol viene somministrato in dosi massicce a centinaia di ragazze, con il risultato di provocare grandi cambiamenti nei loro fisici. Ce lo racconta il dottor Werner Frank, che è un biologo molecolare del centro di ricerca tedesco sul cancro, che ha contribuito a portare alla luce i documenti che provano il doping. Per esempio andavano incontro a una crescita del clitoride, una crescita dei peli, come quelli dei maschi, per esempio sulla schiena o sulla fronte. E dalle Olimpiadi del 72 a quelle di Montreal del 76 anche Cornelia vede il suo corpo trasformarsi visibilmente. A 13 anni è una ragazza agile, ancora sottile. 4 anni dopo la sua corporatura è completamente cambiata, ha preso 7 kg in più, i suoi muscoli sono enormemente cresciuti. Avevo messo su un mucchio di chili quell'anno, probabilmente perché non mi ero allenata come al mio solito, ma potrebbe essere stato anche a causa di qualcos'altro. Non penso che avessi un tipo di fisico che aveva bisogno di quelle cose. Non avevo mai sollevato pesi a livello intenso. Ero agile, forte in maniera naturale, con una nuotata a stile praticamente perfetta. Ero un esempio per gli altri. Ma per i tecnici della DDR il fisico naturale di Cornelia non basta. Gli appuntamenti internazionali sono troppo importanti per permettersi di perdere, e infatti lei vince. Nel 73 migliora il record della Gold nei 200 misti, ma anche quello dei 100 stile libero, dei 100 farfalla. Con questi risultati Cornelia si presenta a Belgrado ai campionati mondiali organizzati per la prima volta dalla Federazione Internazionale, e a Belgrado non c'è da battere solo l'australiana Gold, ci sono anche le americane, che storicamente sono le nuotatrici più forti, e tra queste c'è anche una californiana che si chiama Shirley Babashoff. Prima del 1973 non sapevo neppure che cosa fosse uno steroide. Poi quell'anno, ai mondiali di Belgrado, le tedesche vinsero 10 gare su 14. Erano enormi e ci davano dei distacchi abissali. Belgrado fu una ferita che durò molti anni. Il morale era a terra, le ragazze entravano in acqua già sapendo di essere battute. Mi ricordo una ranista in particolare, e giuro che era un uomo. Per fortuna Cornelia non è tra le atlete che hanno avuto maggiori problemi a causa del testosterone, ma c'è chi invece ha avuto la vita devastata dagli steroidi. Prima su tutte la lanciatrice Heidi Krieger, che nell'86 vinse la medaglia d'oro agli europei di Stoccarda nel lancio del peso. A lei furono somministrati steroidi fin da quando aveva 16 anni. Nell'anno in cui vinse l'oro le furono dati 2590 microgrammi di Oral Turinabol, 1000 in più di quanti ne prese il velocista Ben Johnson squalificato alle Olimpiadi di Seul dell'88. Non so se mi spiego, il risultato è che dopo anni di dolorosi problemi col proprio corpo, Heidi Krieger è stata costretta a sottoporsi a un'operazione di cambio di sesso e oggi si chiama Andreas. Non ho vissuto l'operazione in maniera particolarmente strana o traumatica, probabilmente perché ero già dentro questa cosa maschio-femmina. Avevo deciso di sottopormi all'operazione perché non riuscivo più a vivere nel corpo di una donna. Ormai non avevo più il coraggio di andare in giro per strada, perché la gente mi chiamava con brutti appellativi come frocio, porco gay, tanto che alla fine rimanevo sempre dentro il club sportivo a fare quello che dovevo fare, perché qui mi sentivo al sicuro e non temevo di essere bullizzato per strada. Il caso della lanciatrice Heidi Krieger, costretta al cambio di sesso, è uno dei più estremi, ma non uno dei più gravi. C'è chi è morto di cancro al seno, come la nuotatrice Verena Rosberg, chi come Ute Krause ha sofferto per anni di una gravissima forma di bulimia, e poi molti altri atleti hanno sofferto di depressione, di problemi ai polmoni, al cuore, di infertilità, tutti per colpa del doping di Stato. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando uno dei segreti terribili che per anni è stato tra i meglio conservati del comunismo e della Repubblica Democratica Tedesca in particolare. Lo State Plan 1425, che è il nome in codice del doping di Stato che per quasi 30 anni è stato il responsabile sì dei grandissimi successi sportivi nella DDR nel mondo, ma soprattutto di grandissimi problemi di salute di atleti che a loro insaputa, sottolineo, hanno dovuto prenderlo per tutta la loro carriera sportiva. E questo per non parlare della slealtà che questo regime e soprattutto quella federazione ha avuto nei confronti del resto del mondo. Bene, tra gli atleti di cui stiamo parlando c'è la nostra protagonista della puntata di oggi, la nuotatrice Cornelia Ender. La verità del progetto chiamato in codice State Plan, all'inglese, oppure State Plan alla tedesca, 1425, la verità viene a galla solo dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989. Solo allora le migliaia di documenti segreti in mano alla Stasi, la terribile polizia segreta della Repubblica Democratica Tedesca, diventano pubblici, rivelano la macchina perfetta che c'è alle spalle degli allenamenti di questi campioni, anche di queste vittime. È una struttura che prevede la complicità di allenatori, medici, tecnici sportivi, impegnati tutti a portare avanti il programma all'insaputa delle migliaia di ragazzi che gareggiano per la loro patria, considerati alla stregua di carne da macello da immolare sull'altare della propaganda comunista. Il dottor Sunder, vice direttore dei medici dello sport di Berlino negli anni che vanno dal 73 al 90, ammette la realtà che era sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori di quell'epoca. La parola doping non veniva usata. Nella DDR la parola doping semplicemente non esisteva. Erano considerate medicine di sostegno all'allenamento, che suonava molto meglio. Il doping è un affare di Stato inconfessabile, una parola impronunciabile. E le rare volte in cui capita che qualcuno degli atleti si accorga di quello che gli viene fatto, si ribelli al sistema, deve sopportare reazioni immediate e durissime. Ce lo racconta un'altra sportiva, la pallavolista Katrina Bullin. Una volta una ragazza della squadra aveva osato dire qualcosa del tipo «Cosa ci stanno facendo?». Era più scettica e sospettosa di noi. E poi seppi che fu cacciata con disonore, buttata fuori e privata di tutto. Fu terribile, davvero. Stiamo parlando di comunismo e con il comunismo il dissenso non viene neanche preso in considerazione. E poi è difficile per questi adolescenti non solo rendersi conto di quello che succede, ma anche di rinunciare a quel poco che grazie allo sport possono ottenere. Ce lo dice sempre la bullying. Potevi viaggiare all'estero, per esempio. Io sono andata in Italia quando avevo 15 anni e andare in Italia era una cosa straordinaria, impossibile per i normali abitanti della DDR. E molti di voi si potrebbero chiedere dove fossero i genitori di questi ragazzi, come mai non abbiano protetto i loro figli. Ma anche in questo caso bisogna ricordare che in un sistema così, così rigido, innanzitutto era difficile reperire le informazioni giuste, inoltre tradire, diciamo così, il comunismo mettendosi a questionare con i metodi ufficiali richiedeva un coraggio che non tutti avevano. Per esempio il padre di Cornelia Ender, nonostante fosse un colonnello dell'esercito, non riesce a sapere nulla, tantomeno a ottenere qualcosa. Cornelia era troppo giovane per capire. Faceva quello che le chiedevano, ma io ero in stretto contatto con lo staff del club di Hull. Un giorno l'allenatore Langbein mi disse che stavano pensando di somministrare quella roba lì anche a Cornelia per via di un calo negli allenamenti. Chiesi al dottor Kipke di dirmi se ciò che avevo sentito da Langbein corrispondesse alla verità. Mi rispose che non erano affari miei, che se avevo a cuore gli obiettivi di mia figlia dovevo fidarmi di loro. Risposi che avevo delle obiezioni, che mia figlia era minorenne e che volevo essere tenuto al corrente di tutte le pratiche che le venivano sottoposte. Credo che mi avrebbero informato se le avessero somministrato quella roba. In un'intervista realizzata molti anni dopo, però, Cornelia ci dà una versione diversa della vicenda. Mio padre andò dal dottor Kipke e gli disse che se avesse scoperto che mi somministravano steroidi, mi avrebbe portata via. La risposta del medico fu: allora faresti meglio a sbrigarti. Ma lui non lo fece. Ma forse la versione più probabile è quella che ci fornisce il dottor Sunder, che riassume il comportamento di tutti quelli coinvolti nella faccenda con poche parole lapidarie. Veniva detto qualcosa solo quando i genitori facevano delle domande, e anche allora gli venivano date risposte a metà. Beh, la verità, come potete immaginare, è che in quel clima fatto di omissioni, minacce e timore di scostarsi dalle indicazioni del governo, del comitato centrale, del partito, uniti a un desiderio umano di eccellere, di ottenere dei privilegi fondamentali in quel regime, ma anche della gloria, insomma, tutto questo rendeva davvero difficile opporsi a quello che era considerata l'unica maniera possibile di fare dello sport. Non bisogna dimenticare che nei 40 anni di dittatura comunista nella Germania orientale il clima del paese era irrespirabile. La Stasi, che era la polizia segreta, aveva prodotto un sistema di spionaggio capillare mai visto prima. In un paese di 18 milioni di abitanti, in realtà era come se ci fossero 18 milioni di spie. Tutti spiavano tutti, il proprio vicino, il proprio familiare, il proprio amico, neanche se tua madre o tua moglie ti diceva non ne posso più, cerchiamo di andar via, tu sapevi esattamente se questa era una provocazione, un modo per capire come la pensavi o uno sfogo reale. Questo me l'hanno detto in molti. Insomma, bastava un niente per essere considerati un nemico del popolo. Una domanda in più e il destino era segnato. Ci voleva veramente un coraggio enorme a mettersi contro questo apparato inumano. La maggior parte dei genitori di quei ragazzi non avevano né informazioni né possibilità per farlo. A volte tacevano anche per non compromettere la carriera dei propri figli, per i quali la vita era già abbastanza dura. Scuola, allenamento. Non avevi tempo libero. Anzi, la parola tempo libero non esisteva. Ogni manifestazione personale poi era punita. Se ti mettevi un vestito, venivi punita. Dopo il 1° di ottobre, se mangiavi un gelato in pubblico, venivi punita. Beh, io spero che quelli che si definiscono comunisti o che addirittura fanno dei partiti con la parola comunista dentro, insomma, si rendano conto di cosa stanno dicendo. anche la vita di Cornelia segue questo binario e dopo il successo di Montreal e dei mondiali di Belgrado lei continua a macinare successi e record nella sua breve carriera, stabilirà 32 record mondiali in diverse discipline del nuoto, stile libero, farfalla o delfino, insomma. Nel 73 e nel 74 viene eletta atleta dell'anno nel suo paese, nei mondiali del 75 in Bolivia conferma gli ori vinti a Belgrado, nei campionati nazionali a Berlino frantuma altri record ed è con questo palmarès che si presenta alle Olimpiadi di Montreal del 76. Per arrivare in forma in Canada i medici si scatenano. Cornelia in un solo anno trasforma il suo fisico, aumenta la massa muscolare, le si abbassa il tono della voce, gli steroidi fanno il loro lavoro e lo si nota molto bene guardando le foto di quel periodo. Ricordo che mi facevano delle iniezioni durante gli allenamenti e le competizioni, ma mi veniva spiegato che erano delle sostanze per aiutarci a recuperare. Alle ragazze non vengono dati solo gli steroidi e altri medicinali per migliorare le prestazioni sportive, la dimostrazione che i medici sapevano benissimo che quello che stavano somministrando era pericolosissimo viene anche dal fatto che a tutte le atlete viene data la pillola anticoncezionale. Il perché ve lo spiega il dottor Sander. Era chiaro, se eri sotto steroidi anabolizzanti dovevi anche prendere la pillola, perché la letteratura medica diceva chiaramente che potevano nascere bambini con deformità o problemi di altro genere. E infatti negli anni a venire molte atlete hanno avuto aborti spontanei, come la 3 volte campionessa olimpica Rika Reinisch. Altre non sono state così fortunate, hanno partorito bambini con malformazioni. Ma Cornelia Ender non sa nulla di tutto ciò. A 17 anni, nel pieno della sua giovinezza, va a Montreal col desiderio di vincere più titoli possibili, visto che a Monaco nel 72 aveva vinto solo l'argento. E inizia subito con l'oro nei 100 stile libero, primo record, 55 secondi e 65 centesimi. Poi 100 delfino, oro e record. 25 minuti dopo questo risultato, quindi una cosa fisicamente impossibile, torna a gareggiare per i 200 stile libero e vince con 59-26, mondiale e terzo oro. Tutto questo dopo pochi minuti dalla conquista del secondo. E chiude in gloria vincendo un altro oro nella staffetta mista con le compagne. L'unica debacle, se così si può definire, è un argento nella 4% stile libero dietro alle americane cappeggiate da Shirley Babashoff, ve lo ricordate, la rivale della Ender. E a Montreal la Germania dell'Est conquista 40 medaglie, il doppio di Monaco. E 4 anni dopo, alle Olimpiadi di Mosca, le medaglie arriveranno a essere 47, anche se non c'erano gli americani e altri paesi che avevano boicottato i giochi. Insomma, al suo ritorno a Berlino Est, Cornelia può sfoggiare al collo 4 medaglie d'oro, 1 d'argento, un risultato impensabile per una ragazza che non ha ancora 18 anni. Le medaglie sono così tante che Cornelia può permettersi anche di privarsene. Ho sempre donato una medaglia al mio allenatore alla fine di ogni grande evento, ma solo gli ori che non sbiadiscono. Ma nonostante l'incredibile successo di Montreal, Cornelia Ender prende una decisione inaspettata. Abbandona le gare. Dopo le Olimpiadi di Montreal, ho avuto un colloquio con il capo della federazione sportiva tedesca, Manfred Ewald, l'uomo che controllava le nostre vite. Cercò di convincermi a non ritirarmi, ma non ci riuscì. Da allora persi i miei diritti di sportiva. Non potevo viaggiare al di fuori della Germania dell'Est. Non può più uscire dalla Germania Est perché non è più una bandiera da sventolare. E allora gioca gli ultimi capitoli della sua vita pubblica sul fronte amoroso. Prima si sposa col campione Roland Mates, quello che a Mexico City aveva vinto nel dorso, imbattuto per 7 anni. E sono in molti a credere che il matrimonio sia l'ultima trovata del programma Stadtplan 14-25, l'unione di 2 super nuotatori. Quasi per dare origine a una progenie di campioni del futuro, un po' come si fa con i cavalli. Ma quando nasce Franziska, la figlia di Cornelia e Roland, Per fortuna la Germania Est ormai ha i giorni contati, il comunismo è stato abbattuto, la bambina potrà serenamente permettersi di crescere normalmente, di non essere costretta a diventare una campionessa di nuoto. Il matrimonio invece finisce in maniera tutt'altro che serena dopo solo 4 anni. Senza il nuoto, io e Roland eravamo diventate persone completamente diverse. Decisi di divorziare dato che ero ancora giovane e potevo rifarmi una nuova vita. E poi ci sono le nuove nozze, le seconde, con l'ex decatleta Steffen Grund. Agli inizi della loro relazione i due cercheranno di chiedere asilo politico alla Germania Ovest, ma la pressione della Stasi è tale che abbandonano il progetto. Il 9 novembre 1989 crolla il muro di Berlino e si avverano centinaia, migliaia, milioni di sogni, tra cui quello dei due coniugi Grund Ender. Oggi lei abita col marito, con Franziska, con la seconda figlia Tiffany, nella Germania Ovest, vicino a Magonza, l'attuale Mainz, lavora come fisioterapista, sta abbastanza bene fisicamente perché la sua fortuna, il suo colpo d'ala è stato quello di aver abbandonato l'agonismo dopo soli 4 anni di allenamenti intensivi e di doping. Insomma, in qualche modo il suo corpo è stato in grado di smaltire gli steroidi, a differenza di altri atleti che hanno dovuto prenderli per molto più tempo e sono stati segnati per sempre. E con l'apertura degli archivi di Stato degli anni 90 tutto il mondo viene a conoscenza dell'entità del fenomeno doping della Germania orientale. Il doping non è stato appannaggio solo della DDR, però è un dato di fatto che solo nella Repubblica Democratica Tedesca il doping è diventato parte di una precisa politica statale. Doping in the GDR. Il doping nella Repubblica Democratica è stato diverso da quello del mondo occidentale, ma è stato diverso anche da quello di altri paesi del blocco comunista. Eravamo in Germania, era metodico, era burocratico, era tutto scritto. Eppure, nonostante tutto fosse accuratamente documentato, sono in pochi a aver pagato per quello che è successo. Molti atleti sono andati nelle aule dei tribunali per avere giustizia, ma pochi l'hanno ottenuta. Pensate che Heidi Krieger ha ricevuto solo 10.000 euro di risarcimento per essere stata costretta a diventare Andreas. La casa farmaceutica Jena Pharma, che oggi è stata assorbita dalla Schering, declina ogni responsabilità perché sostiene che la colpa è del regime comunista, alla faccia dell'etica medica. E sul fronte sportivo è stato chiesto più volte di chiedere ai tedeschi orientali di restituire le medaglie conquistate in quel periodo, ma alla fine è stato deciso di lasciare tutto com'era, e per certi versi è stato giusto così, perché in fondo quegli atleti hanno pagato un prezzo veramente alto per vincere quelle medaglie. A questo proposito vorrei farvi sentire un'ultima dichiarazione di Cornelia Ender. Che me ne faccio di queste medaglie ora che sono diventate infette? Che ne sapevo allora e cosa ne so adesso? Perché dovrei ancora pensare a cosa mi somministrarono 16 anni fa quando ero una bambina? Storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, anche se a volte l'hanno pagato caro, anche quando il colpo d'ala è stato trasformato in strumento terribile di un regime terribile. Però Cornelia Ender comunque ha pagato, ma ha lasciato un segno nello sport mondiale, perché sono convinto che comunque sarebbe stata una grande atleta. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche dare il colpo d'ala che lo può portare a volare molto in alto. Se volete mandare i vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure visitate la nostra pagina su radio24.it. insomma, se volete sapete dove trovarmi tra social e pagine varie. Ciao, a lunedì. Are you customized?